e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, bentornati, ben ritrovati a Cuore e Denari. Speriamo che la vostra settimana sia iniziata nel migliore dei modi, auspicio che vi abbiamo rivolto già ieri, o comunque meglio di quella della Borsa di Milano. Piazza Affari, dopo un nuovo lunedì nero, anche stamattina va sulle montagne russe. Abbiamo in questo momento un ribasso dello 0,3%, è partita con un progresso di mezzo punto, poi ha perso tutto, è arrivata a perdere il 3%, poi è risalita, poi è ritornata indietro. Insomma, il nervosismo sta pervadendo anche stamattina gli operatori finanziari. E quindi in apertura faremo un punto sui mercati, che continueremo a tenere d'occhio per tutta la mattinata. Per la pagina di denari proseguiremo poi parlando di multe. Potrebbero esserci delle complicazioni per chi le paga con la carta di credito. Vi è mai capitato di scegliere questa modalità di pagamento per una contravvenzione? Con i nostri ospiti capiremo quali sono i rischi. In primo luogo quello di non poter approfittare dello sconto del 30% previsto per chi paga entro 5 giorni dalla notifica della sanzione. 800 24 00 24 per raccontarci le vostre esperienze e fare le vostre domande. E nella pagina di Cuore invece torniamo ad occuparci di inquinamento e dei rischi per la nostra salute. Dopo la pioggia dei giorni scorsi le città hanno preso una boccata d'ossigeno, ma l'emergenza rimane e soprattutto non si può abbassare il livello di attenzione appena tornare al punto di partenza e ritrovarci di nuovo sotto una cappa di polveri sottili. A questo proposito voglio ricordarvi due dati. Il primo arriva dal Ministero della Salute e sottolinea che l'inquinamento atmosferico è responsabile ogni anno in Italia di circa 30.000 decessi solo per il particolato fine, pari al 7% di tutte le morti, naturalmente escluse gli incidenti, mentre il secondo è frutto di uno studio pubblicato recentemente che riguarda la popolazione pediatrica e che conferma che vivere in città in cui vengono superati i livelli di polvere sottili per giorni e giorni comporta delle conseguenze sulle funzioni cerebrali e addirittura sulle strutture anatomiche del cervello. Di tutto questo e molto altro parleremo nella seconda parte di Cuore Denari con i nostri esperti, a cui naturalmente potete chiedere anche informazioni più tecniche riguardo agli effetti di particolari inquinanti sulla nostra salute, ma non solo. 800 24 00 24, chiamateci, perché insieme a noi ci sarà il dottor Dragonetti, un otorino a cui potete riferire dei cambiamenti se notate che il vostro raffreddore non smette mai, se avvertite pizzicore in gola, tosse, se vi accorgete che il vostro naso non cattura più gli odori come un tempo, chiamateci, restiamo insieme a voi. Lo riconoscete? Questo è il suono dell'apertura delle contrattazioni a Wall Street, la campanella di borsa che accompagna i nostri collegamenti quotidiani in cui vi facciamo il resoconto della seduta di borsa, e questo resoconto è davvero difficile e pesante in questi giorni. Ieri abbiamo avuto un nuovo lunedì nero per le borse europee, è andata male anche a Wall Street, anche se meglio rispetto all'Europa. Per fortuna che sono chiuse le piazze asiatiche, chissà se no che risonanza avrebbe questo calo europeo, se anche l'Asia appunto avrebbe questi cali così profondi. Naturalmente vedremo se l'Asia recupererà la settimana prossima i cali registrati dal vecchio continente in questi giorni, ma insomma l'agitazione a quanto pare pervade gli operatori. I motivi di questi cali sono gli stessi, non ci sono sostanzialmente delle novità, ma noi vorremmo chiedere se in realtà è di questa stessa idea anche un esperto di mercati. Salutiamo Armando Carcaterra, direttore investimenti di Anima SGR. Buongiorno Carcaterra, benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Allora, naturalmente non parleremo di Anima quotata anche in borsa, che subisce pure i contraccolpi di questi ribassi in questi giorni, ma gli faremo commentare proprio lo scenario finanziario internazionale che sta maturando da inizio gennaio a questa parte. E allora Carcaterra, io sono proprio partita ricordando il fatto che temi nuovi a determinare questi ribassi non ce ne sono, stiamo commentando sempre un po' gli stessi elementi. Il petrolio in calo anche stamattina è fra i 31 e i 33 dollari al barile fra Londra e New York, il rallentamento dell'economia cinese, l'indecisione delle politiche monetarie, il nuovo rafforzamento della politica monetaria espansiva che arriverà a marzo in Europa, la Federal Reserve che non sa se interrompere a questo punto il ciclo rialzista dei tassi di interesse. Tutto questo, insomma, dicevo, non ha elementi di novità, ma voi ne avete visti? In realtà, come dire, ci sono delle cose nuove da raccontare ai nostri ascoltatori che magari noi giornalisticamente parlando non abbiamo notato. Carcaterra, cosa succede in questi giorni? Ma no, non credo che si possa aggiungere molto. Come diceva lei prima, vedere anche la volatilità dei mercati, come anche quella di stamattina, dà un po' l'idea che effettivamente le idee non siano particolarmente chiare anche fra tutta la platea degli investitori. Questo evidentemente forse non è una bella cosa, però effettivamente diciamo i problemi sul tavolo sono ancora parecchio importanti e non sono tutti, diciamo così, risolvibili a livello di mercato, proprio perché, come si diceva, il rallentamento dell'economia cinese evidentemente è un problema che sta molto nelle mani dei governanti della Cina, le decisioni della politica monetaria nelle mani dei banchieri centrali e quindi gli investitori, diciamo, al momento si muovono con molta incertezza tra queste incognite così grosse. E tornano a cercare i beni rifugio. Abbiamo visto l'oro riprendere quota sulle quotazioni intorno ai 1200 dollari l'oncia. Abbiamo visto lo yen anche molto ricercato, il bund tedesco molto ricercato, al punto che ieri si è di nuovo allargato, e succede anche stamattina, lo spread fra BTP e bund, che si è riavvicinato a 150 punti base, un po' per la fuga dal BTP, un po' per la ricerca appunto del bund, quindi un combinato disposto dei due elementi. E questa mattina anche un fatto nuovo in Asia si è registrato: i titoli di Stato decennali hanno avuto una discesa in terreno negativo. Carcaterra, cosa significa questo segnale? Ma significa appunto molta incertezza, e in questo momento, diciamo così, di paura, appunto, come diceva lei, una ricerca quasi disperata per i cosiddetti beni o asset rifugio. Il problema è che ormai da un po' di tempo a questa parte quelli che possono essere percepiti come asset in cui rifugiarsi hanno rendimenti negativi. Questa, diciamo, è una situazione che bisogna continuare a ricordarsi essere veramente inusuale nella storia dei mercati finanziari, perché, diciamo, non è così. È un altro elemento che testimonia della, diciamo, non normalità della situazione complessiva. Peraltro è uno stesso motivo per cui, se diciamo un po' di stabilizzazione riuscisse a essere riportata un po' sui mercati, dovrebbe far ben riflettere, diciamo, nel senso, è meglio investire appunto a tassi negativi su titoli di Stato percepiti come sicuri, o a un certo punto sarà meglio iniziare a riguardare, no, alternative che pure ci sono? È chiaro che in questo momento è difficile anche parlarne, però, diciamo, tanti sono anche i titoli azionari rappresentativi di aziende che continuano a essere solide, che hanno dei rendimenti, per esempio, da dividendi particolarmente elevati, elevatissimi, diciamo, in confronto ai tassi negativi, perché anche parlare di rendimenti da dividendi del 2, 3, 4% evidentemente, diciamo, ci fa parlare di rendimenti che sono multipli, no, esagerati dei tassi bassi. E questo potrebbe essere un suggerimento da dare magari ad un risparmiatore a caccia di precauzioni per difendersi dalla situazione di grandissima volatilità, ma soprattutto di grandissima direzione negativa che stanno avendo i mercati in questi giorni. Un'ultima considerazione, Carcaterra, poi la lasciamo, la vorrei fare a proposito dell'Italia, perché stamattina il FTSE MIB è partito con mezzo punto di rialzo, quindi proprio fragile, poi ha perso tutto, è andato a meno 3, poi ha recuperato, è andato di nuovo in territorio positivo, guadagnava un punto fino a 20 minuti fa, adesso riperde tutto meno 1,28%. Anche le altre piazze europee sono negative, ma riducono i danni a circa lo 0,5-0,3% fra Parigi e Francoforte. Ci si ostina a dire che non esista un caso Italia in Europa. Lei che opinione ha? Ma in realtà, come diceva lei all'inizio, ci sono tante aree, no, di macro instabilità. Una di queste in questo momento purtroppo fa capo di nuovo all'area euro, perché continuano, diciamo, a tornare al pettine alcuni nodi relativi al fatto che l'area euro ha una struttura, diciamo, complessiva politico-istituzionale non completa. Questo purtroppo la rende, diciamo, un anello debole in qualche maniera nello scenario internazionale, ribadisco, in uno scenario internazionale che c'ha già anche altri grossi problemi, per cui in questo momento avere, presentare il fianco scoperto da qualche parte è un ulteriore elemento di debolezza, e se vogliamo all'interno di questo, in questo momento l'Italia sta giocando un po' un ruolo di relativa debolezza per la questione, diciamo, della situazione del suo sistema bancario nel complesso, perché siamo il paese dove ancora, diciamo, il problema dei crediti non esigibili non è stato affrontato in maniera strutturale. O almeno non nella maniera che veniva auspicata, esatto. Peraltro c'è un Consiglio dei Ministri domani sera alle 21, dove dovrà essere varato anche il provvedimento per gestire i rimborsi degli obbligazionisti delle quattro banche salvate in novembre, che peraltro è stata proprio un po' la situazione apripista di questa situazione di incertezza sul sistema bancario italiano che è di nuovo riesplosa in queste settimane. Grazie ad Armando Carcaterra per essere stato con noi. Chissà se ci toccherà risentirci nei prossimi giorni. Buona giornata, intanto. Grazie, buon lavoro. A voi, buona giornata. Andiamo al traffico adesso, poi torniamo sul tema che approfondiamo questa mattina, le multe. Cuore e denari. Mi vuoi fare la multa? Ormai tutto è una multa, una tassa occulta. È vero, perché circolare nei centri cittadini, ma anche in tanti altri posti, è diventata davvero un'impresa titanica. Centri storici non più accessibili, zone a traffico limitato, divieti di sosta ovunque, parcheggi a pagamento o riservati ai residenti, o se si esce dal centro i rischi sono altri, a partire dall'intensa attività degli autovelox pronti a pizzicarci se superiamo anche solo di un chilometro i limiti di velocità. Insomma, commettere un'infrazione stradale è davvero facilissimo, visto che la vita frenetica che conduciamo ci rende poco pazienti nella gestione della nostra guida e della nostra auto. Le multe fioccano sempre a sorpresa, sempre a dire che non ce le meritiamo, spesso le troviamo bellamente esposte sul parabrezza dell'auto, spesso invece ci vengono notificate con qualche settimana o mese di distanza. E come le paghiamo? Voi come le pagate? Tabaccheria, bollettino online, poste, carta di credito? Ebbene sì, anche se non ci risulta sia una pratica molto diffusa, pare che molti automobilisti italiani paghino le multe anche con la carta di credito. E allora dobbiamo invitarli a fare attenzione, perché chi paga una multa con carta di credito, bonifico bancario o comunque con strumenti elettronici di pagamento deve provvedere con largo anticipo rispetto alle scadenze indicate dalla legge, altrimenti rischia di non poter beneficiare dello sconto del 30% previsto per chi paga entro 5 giorni appunto dalla notifica. E chi le dice tutto questo? Ce lo spiega il collega Maurizio Caprino, che ha trovato questa notizia appunto spulciando all'interno di una circolare del Ministero dell'Interno di metà gennaio. Maurizio, ciao e benvenuto. Buongiorno a tutti. Sempre a darci cattive notizie. Stavo pensando la stessa mestiere. Cosa. Quando è che vieni una volta tanto a raccontarci qualcosa di... Ah, no, anche perché poi tra l'altro nella seconda parte Nicoletta ti coinvolge anche proprio sul tema traffico, per cui... vabbè. Su questa questione ci faremo dare un parere tecnico anche dall'esperto di codice della strada, Silvio Scotti, che salutiamo. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Anche lei, insomma, associato sempre alle multe, non è che ci dia belle notizie quando lo chiamiamo. Comunque speriamo che a divertirci un po' stamattina arrivino le testimonianze dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24 per tutte le vostre curiosità su questo tema, che bene o male, a meno che non abbiate abdicato in favore della bicicletta o dei mezzi pubblici, interessa tutti noi. Raccontateci se avete ricevuto una multa di recente, se avete pagato subito pensando di approfittare dello sconto del 30% e avete pagato proprio con la carta di credito. Scriveteci o chiamateci, fate quello che volete. Allora Maurizio, comincio subito da te. Cosa spinge un brillante giornalista come te a cercare il pelo nell'uovo delle circolari del Ministero dell'Interno? Vabbè, insomma, scherzi a parte, c'è questa circolare appunto che è stata emanata il 14 gennaio, secondo la quale i pagamenti elettronici hanno effetto solo dalla data di accredito effettivo sul conto dell'organo di polizia che ha comminato la sanzione. E dunque, in soldoni, che vuol dire? Beh, allora, in soldoni vuol dire che lo Stato si è posto il problema degli incassi, come sempre fa, nel senso che lo Stato, per lo Stato e quindi per chi lo rappresenta e che ha la responsabilità di far entrare i soldi in cassa, bisogna appunto preoccuparsi che questi soldi entrino davvero. È un problema che hanno tutte le imprese, però per quanto riguarda lo Stato ha una valenza superiore, diciamo, perché anche perché il funzionario, il dirigente responsabile del far entrare questi soldi poi rischia di trovarsi addosso le ire della Corte dei Conti, e quindi hanno deciso di adottare la linea più garantista possibile per se stessi, ossia quella di accertare che effettivamente i soldi siano entrati. E quando c'è una carta di credito di mezzo, purtroppo esiste, diciamo, c'è una terra di nessuno che in realtà è di qualcuno, che è la banca, e siccome né loro né il cittadino possono influire proprio su questi meccanismi interni dei circuiti bancari, loro hanno deciso di mettersi al riparo da qualsiasi sorpresa, scaricando sul cittadino ogni onere. È importante aggiungere che il problema si pone per tutti i pagamenti che si fanno con la carta di credito, quindi non solo non ce l'ha il problema soltanto chi vuole usufruire dello sconto 30% entro, se paga entro 5 giorni, ma ce l'ha anzi in misura anche maggiore chi come si fa da sempre, diciamo, di fronte a una multa si riduce a pagare all'ultimo momento utile per non farsela raddoppiare, cioè il 60° giorno. Se fate così rischiate proprio che questa multa non solo non vi venga scontata, ma anche l'importo originario raddoppi. Quindi attenzione, assolutamente. Quindi attenzione. Appunto, per fare degli esempi, Maurizio, allora a me arriva la multa, mi viene non notificata, in realtà vado a prenderla al famoso ufficio qua di Milano dove appunto avviene concretamente la notifica, e lì mi comunicano che io ho 5 giorni di tempo per pagarla con lo sconto del 30%, ammettendo appunto, tra l'altro io quelle volte che mi è capitato vado pure a ritirarla di sabato, per cui anche i 2 giorni ulteriori in cui non posso approfittare del pagarla subito, perché in realtà se anche faccio il pagamento col bollettino poi viene accreditato, no, il lunedì successivo. Maurizio, ma a prescindere da questo, ecco, che spiegami un po' che cosa succede se si paga con carta di credito, non si beneficia dello sconto del 30%, ma diciamo potrebbe esserci che l'organo di polizia non si vede l'accredito nel giro di pochi giorni, e quindi può essere che ricontestano di nuovo la stessa sanzione? Sì, assolutamente, perché risulta allora diciamo dal punto di vista della chiusura della partita recata alla multa, conta il momento in cui i soldi arrivano materialmente nella cassa dell'ente. Siccome pagando con carta di credito possono passare mediamente 2 giorni da quando voi materialmente pagate e quando invece materialmente questi soldi arrivano nelle casse dell'ente, l'ente considera che la sanzione non viene pagata, non viene pagata entro quel termine, quindi si comporta come se voi aveste colpevolmente versato in ritardo. E questa è una cosa che diciamo è propria soltanto dell'ufficio pubblico, perché invece facciamo un parallelo: quando voi pagate con la carta di credito l'autostrada, per esempio, allora anche il passaggio è pagato contestualmente, anche se poi a me mi si accredita sul mio conto corrente il 15 del mese successivo. Lì funziona che la società autostradale ha la certezza del pagamento soltanto dopo che è passata almeno una nottata, cioè quando il macchinario vi restituisce la carta di credito, in pratica c'è solo una prenotazione di pagamento che poi viene perfezionata con tutte le elaborazioni successive in una giornata di notte. E però la società autostradale non vi tiene la sbarra del casello chiusa fino al mattino successivo per vedere se veramente i soldi sono arrivati, insomma. Vabbè, allora buttiamo nel bagno, per dire l'altra cosa, le carte di credito, se non le possiamo più utilizzare anche per rendere un po' più elastici i nostri pagamenti, mi sembra col bancomat è diverso, Caprino, ma no, perché l'accredito sul conto dell'organo di polizia viene con le stesse modalità più o meno, tanto con qualche giorno di ritardo, i 5 potrebbero svanire. È comunque una cosa che diciamo non rientra nelle possibilità di controllo del cittadino. Questo è l'elemento fondamentale. Per cui voi controllate soltanto quando mettete mano al portafoglio, tirate fuori le vostre banconote e le consegnate a qualcuno. Allora, Maurizio, fermati lì, esatto, perché a quanto pare i pagamenti in contanti effettuati invece nelle mani degli agenti, che non incontriamo quasi più perché in realtà ci lasciano la notifica, avrebbero effetto immediato, ma non vedendoli, sì, figurati chi paga adesso brevi mano le multe. Allora, un minuto di tempo, Scotti, poi le faccio articolare il suo ragionamento nella seconda parte della trasmissione, ma Tra l'altro su Facebook un ascoltatore ci scrive: pagare le multe con carta di credito è da sfigatoni. E vabbè, uno farà pure quello che vuole. No. Lei che ne pensa di questa storia? Ci faccio un breve commento di 50 secondi, poi io lo faccio fare un po' più completo più avanti. Certamente, direi che si tratta di un problema vecchio che ha una veste nuova. Io ricordo all'inizio della carriera, quando magari si presentava il cittadino all'ultimo giorno utile, però lo sportello gli chiudeva davanti, oppure quando si recava in posta e scopriva che la posta in quel giorno chiudeva alle 2, oppure c'era sciopero. Attualmente invece si tratta di uno strumento elettronico che ha delle modalità a credito che sfuggono, come prima diceva giustamente Maurizio, al controllo del cittadino. Direi che da questo punto di vista l'interpretazione del Ministero è assolutamente corretta, c'è stata anche un'interpretazione della Corte dei Conti e comunque veloce che devo chiudere, sì, andava in questo senso, però bisognerebbe modificare e infatti forme. Ne parliamo dopo il giornale. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Cuore e denari. Vigile, ancora un'altra multa, no? Allora, ci sarebbe anche un altro tema da affrontare in questi giorni che interessa parecchio chi guida senza fare troppa attenzione al fatto che abbia con sé la patente o meno. Dal 6 febbraio è partita una depenalizzazione per tutta una serie di reati e questa novità interessa anche il codice della strada. Chi guida senza avere il permesso avrà una sanzione record più il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Però insomma, la depenalizzazione che cosa vuol dire? Allora, io direi che siccome non abbiamo approfondito in maniera sufficiente la prima questione, Nicoletta, questa parte me la trasferisco in un'altra puntata, quindi prenoterò già Maurizio Caprini e Silvio Scotti per parlare della depenalizzazione dei reati anche commessi da chi guida, e concluderei appunto con Maurizio Caprini e Silvio Scotti il tema invece da cui siamo partiti, perché ci sono molti ascoltatori che vogliono raccontarci quello che hanno fatto, come stanno pagando le loro multe, per capire se rientrano anche nella decisione presa dal Ministero dell'Interno. 800 24 0024, numero verde per i vostri interventi, per raccontarci se pagate le multe con il bancomat, carta di credito, strumento elettronico di pagamento che il governo auspica sempre che venga utilizzato naturalmente per tutti i pagamenti, per tracciare tutti i nostri comportamenti. Adesso scopriamo che per chi paga le multe potrebbe essere non tanto una buona scelta. Allora, volevo far concludere a Silvio Scotti, nostro esperto di codice della strada, il suo commento su questa iniziativa, che lui diceva ha una sua ragion d'essere, una sua validità, però dovrebbe essere anche un pochino aggiustata. Scotti. Certo, senza dubbio, in quanto a mio avviso potrebbe tranquillamente essere previsto dalla norma o anche con una circolare interpretativa il momento del pagamento essere spostato al momento in cui il cittadino si priva della disponibilità del denaro, quindi nel momento in cui effettua la transazione con la carta di credito o dà ordine alla banca di effettuare il pagamento. Ma diciamo che con il bancomat è contestuale questa cosa, cioè è immediato il prelievo dal nostro conto corrente. Adesso magari con la carta arriva il 15 del mese successivo, ma con il bancomat il prelievo è contestuale. Che cosa vuol sapere ancora di più il Ministero dell'Interno? Io veramente non capisco. Che Scotti venga qua a dirlo. Esatto. Scotti. Ecco, in ogni caso teniamo presente che molte volte, soprattutto con l'introduzione del 30% di sconto nei primi 5 giorni dalla notificazione o contestazione, il termine è brevissimo. Prima l'esempio che è stato fatto, mi reco in posta il sabato mattina e ho già sprecato 2 giorni dei 5, che sono piuttosto pochi, per effettuare il pagamento. Quindi dobbiamo tenere conto che la ristrettezza dei tempi è talmente pressante che probabilmente è necessaria una norma interpretativa per venire incontro al cittadino. Non lo so, potrebbero dire, sì, però potrebbero dire, scusi, dottor Scotti, Allora, entro 5 giorni non usate pagamenti elettronici. Punto e basta. Punto e basta. No, perché per poi me uno no, usa, no, è veramente poi... folle. No, perché uno no, si sbriga dai. Anche. Io il bonifico me lo faccio la sera tardi a casa, quando sto tranquilla e chiudo un po' tutte le pratiche che, me, va? Esatto, che sei. Devo espletare dei miei fatti personali, quindi veramente non si capisce per quale motivo. Vabbè, detto questo, saranno anche nostre considerazioni banali, però stanno già facendo scattare molto nervosismo nei nostri ascoltatori, giustamente, dico io. Sentiamo un po' che cosa ci raccontano. Ruggero da Padova, benvenuto. Qua pare che a Padova si sia trovata una buona soluzione per superare questo problema. Sì, buongiorno. Io appunto ho fatto commesso delle infrazioni passando in ZTL, sono un commerciante di Padova, in orari purtroppo non consentiti. Capita a tutti, Ruggero. Dopo 3-4 mesi mi sono arrivate 3-4 punto sanzioni e preso atto e ricordandomi che effettivamente avevo commesso quelle infrazioni, mi sono apprestato a fare il pagamento attraverso l'home banking. Pago, sì. Quindi di conseguenza archivio il tutto, no, sconto, cioè, faccio il pagamento in maniera tale da avere il vantaggio del 30% di sconto, certo. È morta lì. 7-8 mesi dopo, altre raccomandate in cui l'amministrazione, comando polizia appunto di Padova, mi richiama dicendo: caro amico, c'è qualcosa che non va, hai pagato sì in forma ridotta ma oltre i 5 giorni, vieni e dai a questo punto l'intero importo. Cosa ha fatto? Io sono fortunatamente, avevo archiviato tutto, sono andato al comando polizia, i quali subito mi hanno detto: ma lei ha pagato con home banking? Sì. Guardi, vediamo subito, hanno controllato che io avevo dato disponibilità alla banca. E hanno stracciato la seconda notifica. No, non hanno stracciato, però mi hanno detto: prepari un'autodichiarazione nella quale ci chiede, a fronte del fatto che lei allega i documenti che ha qua, quindi io li avevo fortunatamente tutti, e inoltreremo la richiesta, adesso non mi ricordo la terminologia, ma sostanzialmente l'hanno poi, appunto. Mi è arrivata una successiva raccomandata in cui mi hanno detto: caro amico, stai tranquillo, tutto a posto. Sì, però lei ha dovuto dimostrare, ha dovuto perdere tempo, andare là, far vedere che aveva fatto il pagamento, eccetera. Maurizio Caprino, scusami, ma questa circolare del Ministero dell'Interno non è del 14 gennaio? Per quale motivo, Ruggero, la contestazione gli è stata fatta per un periodo pregresso, tra l'altro, ammettendo che avesse ragione? Allora, io temo che se il problema del nostro amico ascoltatore si riproponesse adesso, lui non avrebbe questa via d'uscita, perché cosa hanno fatto con l'autodichiarazione che gli hanno chiesto? L'hanno semplicemente allegata a una pratica di autotutela cosiddetta, che hanno mandato al prefetto, il prefetto ci ha messo il timbro sopra ed è andata bene. Adesso, essendoci questa circolare del Ministero dell'Interno, il prefetto, che dipende dal Ministero dell'Interno, non può decidere diversamente da quello che gli dice di fare il Ministero, e siccome con quella circolare il Ministero gli dice di non considerare valido il pagamento, questa soluzione viene automaticamente a cadere. Per cui ha ragione Silvio Scotti quando dice che occorre cambiare la norma. Ecco, speriamo che ci ascoltino, speriamo che leggano anche dal Ministero dell'Interno i pezzi di Maurizio Caprino in cui viene denunciata questa nuova ennesima anomalia all'italiana. Sentirei Marco da Parma per poi andare verso la conclusione con i suggerimenti di Silvio Scotti e Maurizio Caprino su, a questo punto, la modalità giusta per pagare, per evitare che ci arrivino dopo mesi ulteriori notifiche per rivendicare il pagamento della medesima sanzione che ci è stata comminata. Marco da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. E niente, in pratica, secondo me il problema cardine è quello che queste banche qui si avvalgono di subagenzie. Quando in pratica uno va a fare un pagamento per un verbale o per una bolletta scolastica, la retta scolastica che è in scadenza, e paghi col bancomat, carta di credito, addirittura con loro allo sportello, questi pagamenti qua in differita vengono dati in mano a delle agenzie, le quali poi girano il pagamento. E questo passaggio qui fa perdere del tempo. Va bene, Marco, io capisco questo, però questo non significa che lei non abbia pagato. Lei ha pagato, quindi lei può certificare che in un determinato giorno, in un determinato momento, si è messo a pagare. Quindi c'è, siccome c'è documentazione che lo dimostra, che poi le banche tra di loro si organizzino con altre agenzie appaltate e subappaltate, io penso che all'utente, al cittadino, Silvio Scotti, mi dia un po' di aiuto su questo. Debba interessare certamente, poco, ma certamente. Se io pago e lo posso dimostrare perché faccio un pagamento stratracciato con l'home banking, con la carta di credito, con il bancomat, ma cos'altro vuole lo Stato da me? Infatti, il problema non deve riguardare il cittadino, e la mia considerazione finale è questa, cioè la normativa deve essere costruita nei confronti di un cittadino che intende pagare, perché attenzione, qua non siamo di fronte al furbo che intende eludere la norma, siamo di fronte ad una persona che intende assolvere le proprie obbligazioni. Infatti, e quindi che se la veda lo Stato con il sistema bancario ancora una volta, per le multe magari riducete i tempi di a credito di questi pagamenti, i giorni di valuta, non lo so, Maurizio Caprino, come potrebbe essere un meccanismo di aggiustamento adeguato? Allora, il meccanismo sarebbe quello che dite voi con una clausola di salvaguardia, nel senso che a volte magari succede che la transazione viene respinta perché c'è un'anomalia informatica, oppure il conto, nel conto c'è qualcosa che non va bene, oppure avete una carta di credito di quelle temporanee che è andata o fuori plafond oppure è scaduta. Quindi diciamo che si può dire, si può far valere il momento in cui si effettua il pagamento, con l'unica clausola di salvaguardia che quando poi il pagamento venisse rifiutato dal sistema bancario, certo, allora il cittadino resterebbe indifetto, quindi rimarrebbe comunque in carico al cittadino l'onere di capire quel pagamento che fa oggi, a quest'ora, vedere se magari domani o dopodomani non arriva, certo, un messaggio che gli dice che questo pagamento è stato rifiutato. Prima di salutarci, Maurizio, allora noi manderemo il podcast di questo programma direttamente ad Alfano, così almeno se la sente e si diverte un po'. 30 secondi per un ultimo suggerimento ai nostri ascoltatori. In attesa che questa situazione si cristallizzi e si definisca, visto che è stata partorita a Monca, come suggerisci di proteggere i nostri ascoltatori che ricevono proprio in questi giorni una notifica appunto per un'infrazione stradale commessa, sia che vogliano approfittare dello sconto del 30%, ma anche in altri casi magari un po' più gravi, pagare come? Pagare, allora, se vogliono usare mezzi elettronici, quindi parliamo di carte di credito, bancomat, home banking, tutte quelle cose lì, farlo soltanto se mancano almeno 2 giorni alla scadenza, e non basta, una volta quindi fatto, appena la ritiri paga subito al volo e così ti togli il pensiero e non ci pensi più, esatto, e comunque sempre verificare che poi il pagamento non solo sia stato preso in carico dal sistema ma sia anche andato a buon fine, quindi per tracciarsi l'estratto conto, i messaggi che arrivano dall'home banking, tutte queste cose qua. Purtroppo bisogna farsi parte diligente, altrimenti, caro vecchio buon contante, che dedica lo Stato che ci spinge all'uso dei mezzi elettronici. Ecco, infatti, veramente una contraddizione continua. Grazie a Silvio Scotti, che richiamerò presto per la questione della depenalizzazione dei reati commessi appunto contro il codice della strada. Scotti, arrivederci. Grazie a voi. Rimaniamo però sì con Maurizio. Con Maurizio gli chiediamo di rimanere con noi ancora un attimo per commentare una decisione importante presa dal Parlamento europeo, che Luciana Littizzetto racconta così. La notizia è la seguente: il Parlamento europeo questa settimana si è dato molto da fare. Bene. E ha cercato di trovare una soluzione per risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico e delle polveri sottili. Oh, finalmente. E pensa che ti ripensa. Dai e dai e dai e dai, ha finalmente trovato una soluzione. Perché quando ci si mette con la buona volontà le cose poi si risolvono. Oh, finalmente, Fabio, e sai qual è? No. Raddoppiare i limiti dello sforamento. È così, Fabio. Tieniti forte gli amici di Maria che ti cascano dentro i calzini. Raddoppiare i limiti di sforamento. Maurizio, te ne sei occupata anche tu in un articolo che è molto chiaro, come sempre, in cui hai raccontato per filo e per segno di questa decisione. In sintesi, che succede? Ma in realtà non è proprio un raddoppio, nel senso che stiamo mischiando due cose che non sono paragonabili. I limiti, per come erano, restano uguali. Il problema vero è che siccome si decide di misurarli non solo in laboratorio, in condizioni realistiche, ma anche nelle ben più realistiche situazioni stradali, quelle che ci capitano tutti i giorni, e si è visto che c'è uno sforamento che attualmente è di 4, 5, 6, addirittura a volte 7 volte questi limiti di laboratorio, si è deciso che non si può inquinare più di 2 volte, quindi diciamo che è stata una limitazione che è stata imposta a questi sforamenti che prima erano liberi, quindi insomma, se si vogliono fare delle battute va bene tutto, però dobbiamo essere consci che in realtà si tratta di una stretta, ed è tanto una stretta che già per esempio il gruppo FCA ha annunciato che metterà il famoso catalizzatore filtratore selettivo, quello che va con l'urea, anche sulle proprie vetture medie, insomma, e probabilmente qualche motore diesel di piccola cilindrata, diciamo dagli anni prossimi non verrà più prodotto, perché questo sistema andrà in vigore a partire dal settembre del 2017, quindi aspettiamoci di vedere qualche motore, o comunque di avere dei costi, diciamo dei prezzi di listino che aumentano, proprio perché i costruttori dovranno fare adeguarsi, che è una cosa benemerita per l'ambiente, però tutte le cose hanno il loro costo e quindi bisogna dirlo con chiarezza ai nostri ascoltatori. Per questo abbiamo chiesto a Maurizio Caprino di fermarsi, perché per commentare questa decisione. Grazie Maurizio, ci sentiamo presto. A presto. A voi, arrivederci. Noi continuiamo a parlare di aria, della qualità della nostra aria e di inquinamento con due esperti. Abbiamo in linea con noi Mauro Mocci, medico ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno dottor Mocci, bentornato. Buongiorno. Qui in studio abbiamo il dottor Alberto Dragonetti, che è primario dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria all'ospedale Niguarda di Milano. Dottore, buongiorno anche a lei. Buongiorno, grazie. Allora, qualità dell'aria con il dottor Mocci, leggeremo anche i risultati di ricerche molto interessanti che sottolineano l'impatto della qualità dell'aria sui nostri bambini, sullo sviluppo dei nostri bambini. Con il dottor Dragonetti andremo ad analizzare tutti i segnali, i sintomi che specie in questo particolare periodo dell'anno avvertiamo, per cercare di capire se e quanto l'inquinamento ci metta allo zampino, e quindi dal mal di gola alla tosse che sembra non andare mai via, a un raffreddore che non particolare. Dottor Dragonetti, tanti segnali che ci fanno capire quanto la qualità dell'aria possa in qualche modo incidere naturalmente, no, sulle alte vie respiratorie. Voi che tutelate, siete un po' le sentinelle della salute di questa parte così importante del nostro organismo, che cosa avete notato negli ultimi tempi? Ma certamente durante il periodo invernale, anche solo per l'abbassamento delle temperature, notiamo un aumento delle malattie delle prime vie aeree respiratorie. Ma occorre fare però una premessa, che la via d'ingresso dell'aria è soprattutto il naso. Per questo abbiamo un otorino qua con noi pronto a rispondere alle vostre domande, ma raccontateci anche come funziona il vostro naso, se cattura bene gli odori, se avete notato invece un cambiamento, se sentite anche i sapori in modo differente. Ma torniamo alla qualità dell'aria, dottor Mocci. Che cosa è successo alla nostra aria dopo queste brevi piogge? Cosa succederà nei prossimi giorni? Allora, siamo passati dal periodo pre-fine anno in una situazione drammatica, e lo sappiamo, l'abbiamo sentito tutti allarmati, perché tutte le città hanno superato i limiti consentiti. C'è stata questa pioggia che ha abbassato un pochettino i livelli, ma purtroppo non in modo esauriente, non in modo definitivo, perché le polveri, è vero sì che si abbassano con la pioggia, ma è altrettanto vero che vengono riprodotte continuamente, perché le macchine continuano a viaggiare, i provvedimenti che dovevano essere presi, almeno ad oggi sembra che non siano stati un granché. C'era stata una riunione del governo a dicembre, aveva stabilito alcune norme dei superamenti, se si fosse superato per più di 7 giorni i comuni sarebbero potuti intervenire, ma ancora ad oggi non si vede, anche l'aumento del trasporto pubblico, la riduzione della velocità, l'utilizzo di riscaldamenti alternativi, ma ad oggi non mi sembra, non abbiamo visto cose evidenti. Quindi l'inquinamento ancora purtroppo è rilevante, anche se non abbiamo limiti, non siamo arrivati a limiti come quelli di prima di Natale. Ovviamente bisogna fare in modo, proprio perché quello che si stava dicendo a proposito delle polveri, del danno che queste polveri possono fare, bisogna fare una politica restrittiva e di ridurre. Ora, quello che ci ha detto il giornalista precedentemente è stato molto chiaro ed ha chiarito anche un po' questa norma europea. Che all'apparenza sembra andare un po', no, contromano. Esatto, in realtà, però di fatto è stata quasi questa una missione di colpa da parte di chi produceva. Voleva dire che non era poi così, perché se i limiti erano da 80 mg a chilometro, e ora sono costretti a passare a 168 mg a chilometro, vuol dire che prima quegli 80 mg nessuno riusciva certo. a mantenere. Erano sulla carta. Ma dottor Mocci, prima di passare alle telefonate dei nostri ascoltatori, a cui chiedo di raccontarci in tempo reale lo stato di salute di naso, gola, orecchie, dei loro bronchi, 800 24 00 24, cercheremo insieme al dottor Dragonetti di capire qual è il limite, no? Potrebbe essere influenza, quanto invece sono le conseguenze dell'inquinamento. Vorrei commentare con lei i risultati di alcuni studi che sottolineano quanto i danni dell'inquinamento impattino sulla salute dei nostri bambini. Ne parlavamo proprio anche ieri in redazione, tutti dicono naturalmente i bambini sono più vulnerabili insieme agli anziani, ma c'è di più, ci sono dei risultati di studi che vanno conosciuti e interpretati. Lei ci aiuterà naturalmente a leggerle. È stato pubblicato uno studio secondo il quale i danni dell'inquinamento impatterebbero anche sul feto. Assolutamente sì. Allora ci spiega esattamente, ci dai le coordinate rapidamente su questo aspetto, perché tante volte diciamo i bambini di città sono più gracilini, sono pallidini. In realtà l'inquinamento produce danni nel breve e nel lungo periodo. Quindi noi abbiamo dei bambini che nascono già esposti a dei livelli di inquinamento molto alti. Questo è determinante, soprattutto perché i bambini sono la fascia più debole, ma noi medici dell'ambiente sono anni che andiamo a parlare di questo, perché si è visto che oltretutto i limiti di emissioni sono sempre rapportati agli adulti e non si tiene mai in considerazione della fragilità del feto addirittura. E siccome sappiamo che queste sostanze sono talmente sottili che possono attraversare tranquillamente anche a livello placentare e arrivare al feto, è proprio lì che cominciano a fare dei danni. Cioè, la cosa assurda è che i danni vengono fatti già durante il periodo del concepimento, durante il periodo gestazionale. E quindi lì che vanno ad incidere, e queste sono delle evidenze ormai abbastanza chiare, ma addirittura il Karolinska Institute l'anno scorso, a proposito dell'autismo, perché ci sono una serie di patologie che vengono addebitate all'inquinamento, e le evidenze si fanno mano a mano più chiare. Karolinska Institute dice che, per esempio, a proposito di autismo c'è una sovrapposizione sia di carattere genetico ma anche di carattere ambientale, è rilevante il fattore ambientale, e una serie di patologie che è stata definita all'epoca, fu definita una pandemia silenziosa quella che sta colpendo i bambini, perché noi stiamo assistendo ad una riduzione delle capacità intellettive, delle capacità di linguaggio, dei disturbi del comportamento, e sta aumentando perché l'inquinamento sta cambiando e le nuove generazioni sono sottoposte purtroppo a questi inquinanti più degli adulti. Il danno che viene fatto è un danno rilevante, ma addirittura l'obesità, il diabete viene modulato all'interno della placenta, addirittura con un meccanismo che si chiama epigenetica, cioè il danno che viene poi trasferito addirittura le generazioni successive. È un discorso un po' complesso, ma ormai però volevamo portarlo, ecco, volevamo ormai portarlo all'attenzione dei nostri ascoltatori. Dottor Mocci, intanto noi la ringraziamo per essere stato con noi, naturalmente terremo come sempre monitorata la qualità della nostra aria, inviteremo ancora il dottor Mocci, il nostro dottor aria, con cui, se vi ricordate, avevamo proprio fatto una rubrica quotidiana proprio nel momento in cui l'aria era irrespirabile. Torneremo se sarà necessario, e naturalmente vi aggiorneremo sugli studi che sempre più vanno a considerare e a misurare la relazione tra inquinanti e nostra salute. Dottor Mocci, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Voglio segnalare solamente un servizio online per il monitoraggio dell'indice della qualità dell'aria, che è stato realizzato da un gruppo di ricerca dell'Università di Pisa, utilizzando proprio i dati delle agenzie regionali per la protezione ambientale. Trovate il link sul nostro sito. Allora, si potrebbe leggere Monica oppure Mon IQA, non sappiamo esattamente come abbiano deciso di farlo, no? Come sia esattamente il termine, se volete leggere all'italiano o no. Intanto il link lo trovate sulla nostra pagina. Dottor Mocci, grazie. Noi diamo la linea naturalmente ai mercati e poi insieme al dottor Dragonetti spazio alle vostre domande, quindi naso, orecchie, gole. Cuore e denari. E noi proseguiamo la puntata di oggi, come anticipate, dedicata a chi sente la gola che prude, brucia, il naso che colo si tappa, non riesce a liberarsi di quella tossetta stizzosa e naturalmente in cuor suo si chiede se sia l'effetto dell'inquinamento o la solita influenza. 800 24 00 24, in studio con noi il dottor Alberto Dragonetti, che è primario dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria all'ospedale Niguarda di Milano. L'inquinamento scatena o peggiora, dottore, il quadro di molte patologie respiratorie. Allora oggi ci chiediamo e le chiediamo che fare, come attrezzarsi, come difendersi. Noi in realtà avremo dei filtri naturali. Partiamo da qui. Sì, il primo filtro che noi abbiamo è il naso. Il naso ha la principale funzione è quella di, appunto, permettere l'ingresso dell'aria, ma filtrarla attraverso tre funzioni particolari, che sono il riscaldamento, l'umidificazione ed una funzione che viene attuata da delle piccole celle con delle ciglia molto molto piccole, parliamo di micron, che servono per trasportare le sostanze, certo, no? E se vogliamo trattenerle fino ad una certa dimensione. Il PM10 purtroppo è talmente sottile, infatti si parla di polveri sottili, che passa, superano il naso e vanno nei polmoni, però noi ci dobbiamo fermare al naso. Poi se vogliamo ci sono anche quei bruttissimi peli che abbiamo all'ingresso del naso, che hanno una qualche funzione di ritenere, di trattenere alcune particelle organiche. Quindi il consiglio dell'otorino è: non tagliate i peli del naso. Voi lo fate. 800 24 00 24, dopo questa puntata vedremo ciuffi di peli che escono dal naso e dalle orecchie, bruttissime. Beh, ma servono davvero? Ma nel naso i peli servono, nell'orecchio è discutibile. Allora, intanto, se volete raccontarci come tenete il vostro naso, se lasciate queste sorta di difesa naturale che sono i peli, e soprattutto se fate dei lavaggi nasali frequenti proprio per liberarvi e anche per fare una sorta di pulizia dalle sostanze inquinanti. Dottor Dragonetti, potrebbe servire? Ma sicuramente. Soffiare e lavare il naso è sicuramente importante. Lavare il naso per la proprietà di richiamare i liquidi e quindi pulire il naso, bisogna usare delle soluzioni saline isotoniche, cioè a poca concentrazione di sale. Quindi possiamo, si comprano o si possono preparare? Si può preparare. Ci aiuta? I pazienti consiglio di far scaldare un pentolino d'acqua, farlo ovviamente raffreddare, mettere una punta di dito di sale, sì, e dopodiché con una siringa, senza ago naturalmente, senza ago ovviamente, con una siringa spruzzarla nel naso, tirarlo su, farla scendere anche in gola e poi dopo fare il lavaggio. Questo sicuramente ha un effetto, se vogliamo, anche sulla gola. E vorrei dire una cosa a proposito di gola. Sì. Ricordarsi che bisogna respirare col naso e non con la bocca. E quindi questa perché è una cosa importante. Ci ha guardato e stavamo respirando con la bocca? Sì, perché respirare con la bocca significa far entrare aria fredda, non umidificata, e sicuramente anche quelle particelle che il naso potrebbe trattenere ovviamente vanno direttamente giù nei polmoni. Quindi, detta questa semplice questo semplice consiglio, ovviamente bisogna avere un naso in condizioni di lavorare bene. E oggi scopriremo se il nostro naso lavora bene, perché, e soprattutto se in qualche modo la qualità dell'aria che è impegnato ogni giorno a filtrare gli ha rovinato un po' la salute. 800 24 00 24. Intanto chiediamo ai nostri ascoltatori se sentono degli effetti dell'inquinamento sulla loro salute, sulle salute delle vie, delle altre vie aeree, e soprattutto se vogliono raccontarci che cosa fanno per cercare di arginare l'inquinamento. Salvatore da Monza, Luciano da Verona, buongiorno, i primi ascoltatori della parte di Cuore Denari. Salvatore, benvenuto, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione. Sì, è vero, io faccio come mestiere il tranviere, come si dice a Milano. Sì. e quindi praticamente faccio tutti gli orari possibili e immaginari. La cosa tremenda è al mattino, quando mi alzo alle 3:30, esco fuori, si sente veramente l'aria rarefatta. E il mio problema è che sento come dire questo inquinamento, io ne subisco le conseguenze per, come diceva il dottore, mal di gola, quindi tutto l'apparato respiratorio. Il problema è, Deborah, se posso dire, è questo: è che si parla tanto di inquinamento, ma poi in realtà si fa veramente poco. Si fa poco per Salvatore, lo stiamo commentando. Salvatore, ha una domanda precisa per il dottor Dragonetti o era solamente il desiderio di condividere con noi? Esatto, volevo condividere a testimonianza di quanto noi stiamo raccontando. Perché al mattino l'aria veramente è rarefatta, poi magari con il movimento che avviene man mano che passa il tempo, anche perché le nostre narici probabilmente si adeguano all'odore e non si sente più. Ecco, allora, guardi Salvatore, lei ci offre uno spunto per invitare i nostri ascoltatori a raccontarci. Quando uscite di casa, in quale momento della giornata avvertite, no, un fastidio alla gola che pizzica, il naso che intercetta degli odori cattivi oppure non ne intercetta più? 800 24 00 24, andiamo a Luciano da Verona e poi ci dà alcune indicazioni il nostro esperto. Luciano, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie Luciano. Allora, non le chiedo se si taglia i peli del naso perché sarei sfacciata, però il dottor Dragonetti sta lanciando questa sorta di campagna. Va bene. No, io praticamente circa un anno fa ho subito un intervento del setto nasale. Sì. E mi sono reso conto dopo quel momento, anzi sempre peggiora sempre di più, praticamente lo sento sempre meno e quasi non sento più gli odori. Volevo sapere se c'è una relazione o si è dovuto a qualcos'altro. Certo, grazie a Luciano. Dottor Dragonetti, abbiamo invitato gli ascoltatori a raccontarci come funziona il loro naso, se intercetta odori, e questo è molto importante. Non è sempre solo colpa dell'inquinamento a rovinare un po' la qualità, no? La funzione del nostro naso può anche essere la presenza di polipi. In questo caso Luciano dice: sono stato operato, il mio naso non è più quello di prima, non intercetta più gli odori. È possibile? Allora, innanzitutto la deviazione del setto oltre ai polipi causando una turbolenza dell'aria sicuramente è un fattore di patologia e anche a livello, quando c'è, diciamo, in presenza di inquinamento, questa condizione è disturbante, esattamente come la poliposi nasale e poi vorrei ricordare nei bambini anche le adenoidi. Ne parleremo. Allora, la correzione del setto nasale o l'asportazione dei polipi, questi sono studi scientifici, sicuramente migliorano le prestazioni del naso. Poi è difficile sempre rispondere a queste domande perché occorre vedere che tipo di intervento ha fatto. Ma è possibile che un intervento possa in qualche modo danneggiare? Una delle complicanze dei nostri interventi, devo dire più sulla poliposi che sulla deviazione del setto, potrebbe essere l'anosmia. Cioè noi a volte siamo costretti ad agire nell'area olfattoria per asportare i polipi. A volte asportando questi polipi si potrebbe danneggiare l'area olfattoria. Però è un rischio calcolato. Nel caso del setto è un po' più difficile. Il rischio di una settoplastica, di una correzione del setto, è quello di, secondo me, è più frequente rispetto al danno olfattorio, che, ripeto, senza conoscere bene tutti i fattori non sono in grado di giudicare, è quello di dare un aumento della secchezza. Questo è il rischio perché probabilmente entra troppo aria. Ecco. Per cui bisogna fare delle prevenzioni in questo caso. Allora, 800 24 00 24 per fare anche noi un po' di prevenzione. Abbiamo parlato dei lavaggi nasali, il dottor Dragonetti suggeriva di mantenere almeno i peli del naso, sono così antiestetici che non so quanti seguiranno il suo consiglio, ma se ci sono, sono lì e servono. Cercheremo di capire perché l'inquinamento spiana la strada virus e batteri, per cui è più facile incorrere in malattie da raffreddamento, che cosa fare. 800 24 0024, ad esempio, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme al nostro esperto e alle vostre domande. Cuore e denari. Siamo tornati con una raffica di starnuti insieme al dottor Dragonetti. Ne abbiamo individuati i segnali e i sintomi che mettono in difficoltà naso, gola e bronchi. Nel corso della trasmissione parleremo naturalmente anche dei rimedi per evitare lo sviluppo di infezioni delle vie aeree superiori, a cui l'inquinamento, diciamola tutta, facilita molto la vita. Ma dottor Dragonetti, lei fuori onda si raccomandava, dobbiamo ricordare agli ascoltatori, allora, la prima cosa di respirare con la bocca chiusa, e questo l'abbiamo detto, un'ascoltatrice ci ha già ringraziato. Ha fatto subito un check. Ecco, quindi chiudete la bocca e componete il nostro numero verde. Dottor Dragonetti, riguardo all'inquinamento, lei voleva aggiungere che Sottolineare una cosa importante, che l'inquinamento rallenta quel meccanismo di trasporto e di filtro delle cellule cosiddette mucociliari, come dice il nome, trasportano il muco attraverso queste ciglia. Il rallentamento di questo trasporto favorisce il ristagno di muco, quindi favorisce l'insediamento di batteri, virus e quant'altro. Quindi questa è una cosa importante da sottolineare. Speriamo che le decisioni di chi ci governa in questo senso, ma sono decisioni che vanno prese a livello mondiale, vada in questa direzione. Tra l'altro bisogna anche ricordare che non è che i periodi estivi sono esenti dal problema dell'inquinamento, dottoressa Nicoletta, perché per esempio l'ozono, voi sapete la questione dell'ozono, sì. Riscalda i gas anche soprattutto nel periodo estivo, facendo aumentare il livello di questi. Quindi non è che ad agosto la situazione sia migliore che a gennaio, questo va sottolineato. Ad agosto però la gente è al mare, e questo potrebbe introdurre un discorso interessante. Del tipo? Ma del tipo che, per esempio, parlando di prevenzione, noi una volta eravamo soliti, soprattutto i bambini, dire durante l'inverno andate un po' al mare. Erano condizioni economiche differenti, situazioni differenti. Però si può portare il mare in casa, per esempio. Con le mare e anche le terme, lei suggerisce? Sì, le terme. Però ovviamente, come dicevo prima, oggi è più difficile per la gente andare a fare queste cure. Per cui si possono fare nelle città, oggi ci sono alcuni centri termali e le famose grotte di sale, che per il loro contenuto, alto contenuto di iodio, ha un'azione, oltre che purificante, anche antinfiammatoria. Questo lo dico specie per i bambini, perché queste grotte di sale possono essere... Ce le descriva, sono proprio delle stanze? Sono delle stanze dove con la presenza di una grossa quantità di sale, tipo fare una passeggiata sulla battigia del mare. Quindi sono riscaldate, vengono... quindi emesse queste inalazioni iodate, chiamiamole così. Ecco, lei, dottor Dragonetti, non a caso ha citato i bambini, anche la SIP ha sottolineato che negli ultimi anni si registrano un aumento dei casi di urgenze respiratorie, proprio perché le sostanze inquinanti e lo smog in generale, chiamiamolo così, aumenta l'iperattività delle mucose respiratorie, e quindi si verificano casi più frequenti di problemi respiratori, ma sono in aumento anche le allergie. Non solo nei bambini e negli adulti, e tra le cause c'è sicuramente anche l'inquinamento. Dottor Dragonetti, in questi casi? Allora, in questi casi innanzitutto, se c'è una tendenza allergica, come abbiamo detto, l'inquinamento la peggiora sicuramente. In questi casi la gestione è duplice. Da una parte l'allergologo, dall'altra l'otorino. Il compito dell'allergologo... Lavorate in coppia. Sì, sicuramente. Compito dell'allergologo è trovare una tendenza allergica ed eventualmente prendere dei provvedimenti. E ci sono dei test. Compito dell'otorino? Compito dell'otorino, come dicevamo prima, è quello di documentare se ci sono delle istruzioni. Oggi con dei sottilissimi fibroscopi noi possiamo anche nei bambini in tenera età fare un'ispezione delle prime vie aeree e controllare che non ci siano nei bambini soprattutto ostruzioni legate alle adenoidi o ad un'ipertrofia eccessiva delle tonsille. Chiaramente nei bambini, tranne qualche sindrome ereditaria, non ci sono polipi, non ci sono sinusiti. Però l'associazione otorino allergologo è fondamentale per poi decidere e stabilire la terapia. Allora abbiamo Pino, siamo con Pino da Messina e poi Gianni da Padova. Pino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e buongiorno al professore. Non ce l'ho io il problema, ce l'ha mia moglie. Mm. In pratica soffre da tanto tempo di un prurito fortissimo alle orecchie, che praticamente si collega anche con la gola. Questo prurito praticamente ce l'ha continuamente. Mm. Lei ha provato per un bel po' di tempo a prendere qualche antistaminico, però ora praticamente non li sente più. Sì. E proprio ieri sera, parlando con un medico, praticamente gli diceva di mettere una pomatina Impedex, ma non credo che abbia fatto qualcosa. Se mi poteva dare un aiuto il professore. Allora, grazie Pino. Dottor Dragonetti, allora sicuramente io non credo che adesso noi parliamo della qualità dell'aria, naso, bronchi, ma forse l'orecchio e il problema di Pino non è direttamente collegato alla qualità dell'aria. Sicuramente la moglie di Pino ha un problema molto fastidioso e che è più frequente di quanto si possa pensare. Così, dottor Dragonetti? Premesso che quel prurito che sente potrebbe essere anche di origine nasale, perché potrebbe essere anche legato a un disturbo nasale che si ripercuote sulla tuba dando una specie di prurito retronasale, se è questo che aveva la signora. Per quanto riguarda il prurito classico dell'orecchio, anche qui ecco, più competenza esserci del dermatologo o dell'otorino, secondo lei? Da chi si va? Da chi sa guardare bene l'orecchio. Perché? Lei è di parte, dice, dall'otorino. Ma ci sono anche dermatologi che sanno guardare l'orecchio, mi auguro, perché comunque in genere per fare diagnosi noi dobbiamo vedere. Sì. La fortuna dell'otorino è che vede. Quindi se noi vediamo che all'interno dell'orecchio ci sono dei depositi, e anche qui potrebbe esserci un problema legato all'utilizzo dei famosi bastoncini che però potrebbero anche introdurre nell'orecchio delle sostanze irritanti e tossiche. Quindi questa è una cosa che mi piacerebbe chiedere, se per esempio la signora usa questi bastoncini. Dopodiché ci sono delle gocce al cortisone che evitano l'utilizzo delle pomate. Ma attenzione, potrebbe trattarsi anche di un problema che dal naso passa all'orecchio, perché esatto, i due vanno a braccetto, sono comunicanti. Allora, chiediamo naturalmente al nostro ascoltatore magari di scriverci, andiamo e chiudiamo in bellezza con Gianni da Padova. Buongiorno Gianni, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno al dottore. Niente, buongiorno. Il dottore ha già risposto alla mia curiosità un attimo fa. Il mio problema era di mio nipote che ha 6 anni e pensava, siccome se diverso tempo che è sempre raffreddato, parla col naso, pensavamo che fossero le adenoidi. Mm. Quindi hanno fatto visitare, hanno fatto una ispezione e le adenoidi non ci sono. Allora il dottore ha detto che probabilmente c'è un'allergia e effettivamente hanno trovato, facendo le prove, hanno trovato che è allergico al latte e ai derivati. Ecco, infatti era quello, cioè in presenza, grazie Gianni, grazie per la sua testimonianza, di riniti che non guariscono mai o si ripresentano in tempi molto ravvicinati, ecco, non diamo solamente sempre colpa all'inquinamento o alle malattie da raffreddamento, ma è il caso forse di fare degli esami più approfonditi per trovare la causa. Dottor Dragonetti. Sì, assolutamente sì, anche perché facevo una considerazione. Sì. Se a causa dell'inquinamento tutti avessero problemi, il pronto soccorso di Niguarda sarebbe pieno, e così non è. Quindi significa che noi abbiamo le difese, e quindi ovviamente i fattori di rischio sono quelli che poi incidono di più, tipo allergie o, come dicevo prima, i fattori predisponenti. Dottor Dragonetti, in 30 secondi, un tempo avevate un po' la mano leggera per togliere le tonsille, adesso invece tendenzialmente le lasciate. A che cosa è dovuto questa svolta? È dovuto al 10 secondi, poi magari al fatto che le tonsille fino a un'età adolescenziale, ma anche oltre, hanno un importante componente funzione immunitaria. Grazie dottor Dragonetti per essere stato con noi. Abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, che vogliamo ringraziare. Esatto, come Marco Lombardo, e Laura Vanossi invece per la collaborazione in redazione. E noi torniamo domani. Buona giornata.